falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Cos'è lo sport? È gareggiare, inseguendo i propri limiti, cercando di migliorarsi, di ottenere prestazioni sempre superiori. E poi c'è il grande sport, che è quello di superare non solo i propri limiti, ma i limiti di tutti, i limiti che ci sono al mondo, quelli fissati da altri atleti. Ci sono grandi campioni che, oltre a superare se stessi, hanno ottenuto un risultato che li ha fatti entrare nella leggenda. Noi parliamo proprio di questo oggi. Oggi raccontiamo la storia di un atleta che ha realizzato un record incredibile, che ha resistito 23 anni prima di essere superato. Parliamo del salto in lungo. Il campione di cui vi racconteremo oggi la storia si chiama Bob Beamon. È una storia tipicamente americana, ma ciò nonostante è una storia di quelle che ci piacciono, perché è la storia di un uomo che ha vissuto un grande momento di riscatto, è diventato un eroe in un momento politico molto difficile proprio per gli Stati Uniti. E sì, perché Robert Beamon, Bob Beamon, è un ragazzo di colore che cresce nella New York del dopoguerra, in un quartiere difficile, quello di Queens, dove i neri vengono ancora chiamati negri, vengono trattati come tali. È una società che non ce la fa, o forse non vuole, superare le barriere razziali. Così per Bob l'infanzia è difficile, anche perché la madre muore di tubercolosi quando lui è piccolo. Allora bisogna diventare grandi da subito, con il rischio di frequentare compagnie sbagliate. Le gang dominavano a New York, e se non ne facevi parte eri tagliato fuori. Io facevo parte di una delle più grosse e c'erano continui scontri. Non avrei mai immaginato che sarei riuscito a cambiare vita. Ma l'America è un'occasione, te la offre. Poi lo sport in America è una delle chance per il riscatto. Così, grazie a qualche amico, Bob Beamon comincia a giocare a basket per strada, e poi si aprono le porte della scuola, arrivano le borse di studio, arrivano le sovvenzioni. Insomma, il mondo della delinquenza giovanile diventa un ricordo, perché Bob comincia a studiare e praticare sport, e i suoi insegnanti hanno individuato in lui un potenziale campione. Hai del talento. Sei bravo nel basket, nell'atletica. Impegnati e vedrai che in questo modo riuscirai ad arrivare fino all'università. E prima c'è il college in North Carolina, poi un trasferimento in Texas a El Paso, dove trova un allenatore che non lo fa giocare a pallacanestro, malgrado lui sia già alto 1,89. Gli insegna uno sport meno seguito, meno spettacolare, in cui non conta lo spirito di squadra. Però tutto si risolve con una continua sfida con se stesso, e quell'allenatore ci azzecca, perché dice a Bob Beamon: tu devi fare salto in lungo. E lui è dotato di un talento naturale. Il salto in lungo sembra uno sport tagliato su misura per lui. La facilità con cui si stacca da terra, salta metri e metri di terreno e poi atterra sulla sabbia a piedi uniti senza scomporsi, fanno pensare che per lui tutto si risolva con estrema naturalezza, con grande semplicità. Ho provato a saltare seguendo lo stile tradizionale, ma così proprio non riuscivo a ottenere buoni risultati. Così, con il mio allenatore, abbiamo messo a punto uno stile nuovo, personalizzato, fatto apposta per me. Così nasce la pedalata, un movimento circolare delle gambe che Beamon effettua dopo aver staccato il piede d'appoggio, una specie di pedalata di bicicletta fatta a mezz'aria, quasi a volere camminare sull'aria. Le braccia che si aprono come le ali di un'aquila sembrano aggrapparsi a qualcosa per dare un'ulteriore spinta al corpo. E in effetti questa combinazione di movimenti sembra sgraziata e scoordinata, ma diventa devastante, perché Beamon salta più lontano di tutti i suoi compagni. E già al secondo anno di università lui salta 8 metri e 20. Niente male. Facciamo Qualche confronto: il grande Jesse Owens nel 1933 aveva saltato 8 metri e 13 e il suo record aveva resistito fino alle Olimpiadi di Roma del 60, quando l'americano Ralph Boston l'aveva portato a 8 metri e 21. Poi arriva un russo che si chiama Igor Terovanesi, anche nel 67 salta 8 e 35. Bene, Beamon con i suoi 8 metri e 20 è già vicino al record del mondo senza avere ancora partecipato a nessuna gara internazionale. Questo risultato gli apre le porte della manifestazione sportiva più sognata da qualsiasi atleta al mondo, le Olimpiadi. Nel 68 l'appuntamento è a Città del Messico. Il falco e il gabbiano. Gli Stati Uniti hanno migliaia di grandi atleti e devono sceglierne tre, perché alle Olimpiadi si va in tre, e così sono nati, poi li hanno copiati anche altre nazioni, i trials. I trials sono dei crudelissimi campionati nei quali chi arriva primo, secondo, terzo va alle Olimpiadi, gli altri a casa. E in quell'occasione Bob Beamon raggiunge la distanza di 8,40 metri, quindi avrebbe battuto il record del mondo di ben 5 centimetri. Il primato però non viene omologato perché la velocità del vento è sopra il limite consentito. Vince la gara e va alle Olimpiadi. Capisce che nelle sue gambe e nelle sue braccia si nasconde un potenziale che attende solo il momento giusto per essere liberato. Il record del mondo può attendere. I was beginning to really understand what long jumping was all about. Stavo finalmente capendo cosa fosse veramente il salto in lungo. Avevo avuto l'opportunità di confrontarmi con altri grandi campioni del lungo come Ralph Boston, ma anche con atleti di discipline diverse, come la corsa. E avevo capito che non è sufficiente saltare bene se non hai preso una splendida rincorsa. You could not be a great jumper and not be a good runner too. Eh sì, la star è ancora Ralph Boston, è lui l'uomo da battere. Intanto ha vinto la medaglia d'oro a Roma nel 60 e poi assieme al russo Igor Terovanesian continua a contendersi, diciamo, la supremazia nella specialità. Tutti si aspettano un duello a due tra questi atleti, e un duello che rinnova anche l'eterna contrapposizione tra i blocchi politici degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Bene, comincia a essere considerato il terzo incomodo. Beh, le Olimpiadi di Città del Messico del 68 sono state uno spartiacque dal punto di vista sportivo, anche sociale. Ne abbiamo parlato già, per esempio, quando abbiamo raccontato la storia di Peter Norman. Vi ricordate l'atleta australiano bianco che divise il podio con Tommy Smith e John Carlos, come dire, avvallando il dissenso della comunità nera e pagando a caro prezzo il suo appoggio alla protesta dei Black Power. E poi c'era stato il rischio del boicottaggio delle Olimpiadi. Insomma, nell'ottobre del 68 le Olimpiadi di Città del Messico si aprono in un clima teso e dilaniato dalle polemiche. C'era molta tensione tra la comunità degli atleti di colore. I leader del movimento volevano che nessuno di noi partecipasse ai giochi, ma per un atleta è difficile rinunciare a quello per cui si è lottato, con mesi, anni di allenamento. Dovevamo trovare un modo per dimostrare che meritavamo di essere trattati con eguaglianza. Arriva il giorno delle qualificazioni alla finale di salto in lungo. Le qualificazioni si svolgono in tre salti, tre soli salti. Bene, Bob Beamon fa due nulli, gli rimane un salto solo per evitare di andarsene a casa. Poco prima del salto è stato il suo compagno di squadra Ralph Boston a tranquillizzarlo, gli dà la carica giusta per affrontare quella che è l'ultima sua possibilità per accedere alla finale. Bene, Beamon si concentra e riesce a qualificarsi in extremis. Tutti sugli spalti però si preparano a vedere l'ennesima sfida tra Boston e Terovanesian, il russo, e al limite ci potrebbe essere un inserimento di un inglese che si chiama Lynn Davis, che sotto la pioggia vinse l'oro olimpico del 64 a Tokyo. E Beamon oltretutto si è qualificato per il rotto della cuffia, quindi viene anche ridimensionato nei pronostici. Non sentivo nessuna pressione, ero tranquillo e avevo fiducia in me stesso. In cuor mio sapevo di essere il migliore e in quel momento non pensavo a nient'altro che a fare un buon salto. Il tempo era brutto, Sembrava dovesse piovere da un momento all'altro ed ebbi la strana sensazione di sentirmi solo, in uno stadio completamente vuoto. No one around me. I wasn't feeling lonely. 18 ottobre 1968, una giornata storica per l'atletica di tutto il secolo, perché arriva Bob Beamon, la pettorina numero 254, accelera, stacca con il piede destro e inizia a volare e fa la sua caratteristica pedalata in aria e poi le braccia che si aprono come un falco, un gabbiano, fate voi, insomma, il corpo a terra a piedi uniti sulla sabbia, ribalza due volte con due piccoli salti come fanno i bambini quando imitano un canguro, lo stadio ammutolisce, tutti si rendono conto di essere testimoni di un evento storico, anche lui si rende conto di aver fatto un bel salto, il risultato non arriva, i giudici sono stupiti, si consultano, prendono tempo, Beamon sta saltellando nervoso a bordo pista e in più lui è americano, non conosce il sistema metrico, perché in America le performance vengono misurate in yard, in piedi, ed è solo Ralph Boston quello che riesce al volo a trasformare, a convertire le yard e i piedi in metri. I giudici sono riuniti, passano 20 minuti prima che venga comunicata la misura, anche perché il misuratore elettronico che viene utilizzato arriva a misurare fino a un certo punto e Beamon questo punto lo ha superato, quindi bisogna fare alla vecchia, viene preso un metro a nastro, si cominciano a fare misurazioni, verifiche, i giudici che si consultano, tutto sembra incredibile, il vento è regolare, quindi se la misura dovesse essere superiore agli 8,35 m saremo di fronte al nuovo record mondiale. Alla fine il verdetto viene ufficializzato e comunicato attraverso i tabelloni. Nessuno ci crede. Noi vogliamo farvi sentire come si è sentito Bob Beamon quel giorno e quindi il risultato di quel salto ve lo diciamo tra poco. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la incredibile e gloriosa storia di Bob Beamon, l'atleta americano che difende i colori della sua nazione nella specialità del salto in lungo. Siamo a Messico 68 e stiamo parlando di questo afroamericano che affronta quelle Olimpiadi così particolari per il mondo afroamericano. Ricordate, lo abbiamo già citato anche prima, insomma, la grande protesta di Smith e Carlos dopo la gara dei 200 metri, insomma sono delle Olimpiadi particolari, sono proprio quelle Olimpiadi che il Black Power voleva boicottare, per fortuna non ci sono riusciti perché non avremmo visto questo salto. Torniamo a noi al 18 ottobre 1968, un giorno perfetto per entrare nella storia. E Beamon ha effettuato il primo dei sei salti a disposizione. È un salto fantastico, tutti se ne sono resi conto, ma ci vogliono 20 minuti prima che i giudici rendano pubblico il risultato. E alla fine c'è un numero che compare sul tabellone luminoso. 8 metri e 90, 55 centimetri in più del precedente record, più di un mezzo metro di differenza. Beamon non conosce il sistema metrico, non capisce, lui si aspetta una misurazione intorno ai 27 piedi e il suo compagno di squadra si avvicina di corsa. Ralph Boston era l'unico capace di trasformare i metri in piedi e improvvisamente si avvicinò a me e disse: «Mio Dio, Bob, hai saltato 29 piedi!» Beh, a quel punto mi sono inginocchiato a terra e non ho capito più nulla. Era come se volassi nello spazio. Eh sì, ricordiamoci anche che quelle Olimpiadi erano in altitudine, quindi ci furono grandissime prestazioni nella velocità e nei salti e prestazioni invece scadentissime nel fondo, cioè nelle gare più lunghe. Ma torniamo a noi, il pubblico esplode in un'ovazione, Beamon sta piangendo sulla pista di atletica, lacrime di felicità, di incredulità, la medaglia d'oro ovviamente è stravinta, ma lui ha raggiunto raggiunto un limite che a tutti sembra irraggiungibile, e i primati si miglioravano i 3, 4, 5 centimetri alla volta nel salto in lungo. Ovviamente la gara è finita lì, nessun atleta riesce neanche lontanamente a avvicinarsi agli 8,90 m raggiunti da Beamon. Ma c'è un altro soggetto che in questa magnifica storia ha un ruolo importante, si chiama Tony Duffy, è un ragazzo londinese con l'hobby della fotografia, è un appassionato di atletica, e col fatto che le Olimpiadi sono un momento di aggregazione nel nome della sportività, e col fatto che ancora non si sono presentati casi come quello terribile dell'edizione del 72 a Monaco, cioè come dire le maglie della sicurezza sono un po' allentate, questo Duffy riesce a intrufolarsi dove l'accesso è consentito solo ai fotografi ufficiali. E quel giorno lui è sulle gradinate dello stadio, però ci sono posti liberi, pochi controlli, e così Duffy scende fino a bordo campo, poi si mischia tra i fotografi ufficiali e si mette in una posizione ottima, perfettamente perpendicolare rispetto alla pedana del salto in lungo, e sarà proprio lui a scattare la celebre foto che ritrae Beamon mentre salta, la miglior foto perché è l'unica foto esistente fatta di fronte nel momento di massimo sforzo. E dopo l'Olimpiade di Città del Messico, Beamon è l'uomo da battere, è una attrazione, tutti lo cercano ai meeting, insomma tutti si aspettano un altro grande salto, vogliono che voli ancora magari raggiungendo i 9 metri, ma Beamon quel salto così incredibile non riuscirà mai più a replicarlo, anzi negli anni successivi subirà degli infortuni che ne comprometteranno le prestazioni. A un certo punto proverà anche, è una follia, a cambiare il piede d'appoggio per il salto passando dal destro al sinistro, ma gli 8,90 m rimarranno una distanza irraggiungibile per tutti. Nel 72 si laurea in sociologia, è un altro traguardo notevole per un ragazzo dei quartieri bassi che quando inizia il college non sa neanche quasi leggere e scrivere, e poi abbandona le competizioni, si dedica ai bambini, va in giro per il paese, incontra i ragazzi insegnando i valori dello sport per cercare di allontanarli dalla strada e poter aspirare a un futuro migliore, come era successo a lui. Remember, children are our greatest asset. I ragazzi sono il nostro futuro e io sono convinto che sia importante insegnare loro dei valori affinché possano loro stessi insegnarli ad altri. Devono acquistare coscienza di essere parte di un grande paese e che esistono motivi per vivere intensamente la loro vita. Questo è il messaggio che voglio lasciare. È un salto che vale il record. 0,8. Il vento a favore. 8,95, primato del mondo, primato del mondo, non Lewis ma Powell, fantastico. 30 agosto 1991, siamo ai campionati mondiali di atletica a Tokyo, e lì ci sono i due re del momento del salto in lungo, Carl Lewis e Mike Powell. 23 anni dopo lo storico salto di Bob Beamon, il record di 8,90 viene migliorato perché la sfida tra i due è combattutissima e alla fine la spunta Powell con 8,95. Quindi 23 anni per migliorare il primato del mondo di 5 centimetri. Ricordiamoci che Beamon l'aveva migliorato di 55 centimetri. Eila! Eila! Attenzione, che un grande salto questo! Attenzione, questo è un campione! Questo è veramente un campione! Ha trovato rincorsa e salto! Un salto sicuramente da medaglia, ma vediamo quale! È Saladino perturbabile, non più imperturbabile, sentiamolo! 47! È primo! 47 in testa di un centimetro! Fantastico! È in testa di un centimetro! Fantastico! Ancora Giappone, questa volta siamo a Osaka 2007. Avete sentito la telecronaca, e qui c'è un altro grande salto che è passato quantomeno alla storia dell'atletica italiana. 8,47, Andrew Ou stabilisce il primato italiano, sfiora la medaglia d'oro, perché poi Irving Saladino, che in quel momento era stato superato, salterà 8,57, ma ancora oggi quel primato resiste, il primato di Andrew Ou, che noi abbiamo in linea. Buongiorno Andrew. Buongiorno, buongiorno, buonasera. Ciao, senti, bel ricordo quello. Ecco, siccome noi abbiamo raccontato la storia di Bob Beamon, del suo incredibile salto, no? Gli 8,90 di Messico 68, la prima domanda che ti faccio è questa: mentre tu salti, cioè quando capisci che hai fatto il salto della vita, il salto eccezionale? Beh, guarda, è tutta una questione di sensazioni, sì. Cioè è come se tutto andasse per il meglio, che sbagli meno possibile. Ci sono, diciamo, lì, si stanno allineando sempre i pianeti. Esattamente, comunque sbagli sempre, però tra virgolette c'hai quella, come si dire, sembra che tutto fili perfettamente. E forse proprio per quello stati. Quando sei in volo dai ancora, cioè guadagni ancora quel centimetro in più mentre stai volando, di grinta, no? Guarda, tante persone dicono: ma come corri in aria, come è il salto, è allo stacco, cioè ci sono determinati angoli e determinati angoli di uscita e dello stacco che danno chiaramente la possibilità di andare molto più lontano. Ma si salta con la testa o con le gambe? È una domanda stupida, ma però la risposta sarà più intelligente della mia domanda, secondo me. Sicuramente con la testa. Certo. È ovvio che così salta con la testa, però anche chiaramente con... Bisogna soffrire tanto. Bisogna soffrire. Bisogna prepararsi. Sembra un gioco da ragazzi, carini, prendi, dai, facciamo un bel saltino nella sabbia perché oggi ci va. Eh no, certo. Questo, ma purtroppo non funziona così, ecco perché i mondiali ci sono ogni due anni, insomma, certo. Gareggia poco anche per questo, perché comunque sforziamo al 100% il corpo ogni volta che entriamo in campo. Certo. Senti, Andrew, tu quando hai saputo dell'esistenza di Bob Beamon? Perché tu sei molto giovane, quindi non... Ma io sin dall'inizio, anzi ti dirò di più, lo conobbi a Miami all'età di 11 anni e niente, insomma, tramite Tommy. Ma tu eri già un saltatore in lungo a 11 anni? No, vabbè, ma da un bambino, sì. insomma giocavo, come sì. Facevo quello, giocavo a tennis e in altri sport, sì. Però diciamo che era un incontro tra lui, John Carlos, Tommy Smith, e praticamente siccome Tommy Smith è l'ex allenatore di mia madre, perché mia madre sì. si faceva allenare da Tommy sì. Smith, allora lo conobbi per la prima volta lì e niente, insomma, raccontarono tutta una serie di aneddoti che io chiaramente in questo momento ricordo ben poco. L'unica cosa, proprio l'unica aneddoto che mi ricordo di quella situazione è che lui disse che uscì dalla sabbia non si rese conto minimamente di quello che aveva fatto. Chissà se è vero, Guarda, io purtroppo per me, io quel salto l'ho visto in televisione perché avevo 11 anni. E si vedeva anche con le telecamere di allora, col bianco e nero, con le inquadrature approssimative di quegli anni, si vedeva che questo aveva fatto un salto, era quasi finita la sabbia. Sì, no, ma lui diceva che praticamente appena atterrato, non so se hai notato, quando lui atterra, va via, fa due salti e va via, sì. Fa due salti e fa un po' come, cioè esce dalla sabbia, cioè non è che esce dalla sabbia come ho fatto io per dire... E corre in giro per tutto lo stadio, esce dalla sabbia tranquillo, non si rende conto, lì per lì secondo me non si è reso conto, perché giustamente non c'era l'otto e mezzo, il 9 come c'è adesso, certo. Cioè lì nel 68 a Città del Messico. Senti, Andrew, naturalmente per fare salto in lungo bisogna avere dei buoni polpacci, però dei buoni polpacci servono anche per suonare la cassa della batteria, perché mi dicono che adesso tu sei anche batterista. Beh, io anche batterista ci sono sempre stato. Vedi. Chissà che cassa di quelle tu, perché... No, io sono in un gruppo, si chiamano Lags, sì. Facciamo un post-rock, post-hardcore, cioè certo. Un po' particolare, tipo Head Driving... Via dicendo. Ah, bene, allora ti faccio, per cosa vuoi che ti faccia gli in bocca al lupo? Ti alleni? Vuoi, salterai? Suonerai? In primis chiaramente per l'atletica, perché la mia carriera continuerà e ancora so di poter dare anche in molte cose, anzi prendo spunto da Fabrizio Donato che ha 41 anni e ancora fa 17 metri e mezzo, quindi, insomma, certo. voglio andare avanti, voglio, e poi è chiaro, insomma, il futuro, la musica si può suonare per tutta la vita. Guarda, lascia, fatelo dire da me, puoi farla più avanti. Va bene, grazie Andrew, grazie mille, in bocca al lupo, ciao. Grazie, ciao. Greg, ciao. Vi abbiamo raccontato il salto più famoso della storia dell'atletica. Altro che Falco e Gabbiano, qui Bob Beamon ha volato fin quasi fuori una pedana del salto in lungo facendo un record che solo oggi è stato battuto. È un atto d'amore incondizionato verso i valori dello sport che a volte ti permettono di raggiungere traguardi impossibili. Noi vi aspettiamo con altre storie. Se voi conoscete qualcosa che merita di essere raccontato, ditemelo attraverso una mail al Falco e Gabbiano, attraverso il sito di Radio 24, attraverso i miei social, i nostri, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.